Voci di piccola impresa, idee anticrisi, di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. C'è sempre chi cerca nuovi talenti, cervelli fini, come si dice. Non perdete la speranza. Sono necessari soprattutto adesso per risollevare le imprese, ma anche per iniziare nuovi progetti. E per i talenti che vogliono passare da un'idea all'impresa, c'è l'opportunità di Switch to Product, la competizione interna di PoliHub, l'incubatore della Fondazione Politecnico di Milano. Esiste come incubatore universitario dal 2001, ma ora ha pensato a Rilancio come distretto tecnologico dove far convivere aziende strutturate che hanno avuto successo sul mercato con aziende che stanno nascendo. Attualmente sono presenti 39 realtà tra startup e aziende già consolidate. Ecco due startup che hanno partecipato e vinto la scorsa edizione e che ci raccontano la loro storia. Ascoltare vale mille astuzie, ricordate. 9 Minutes è la storia di due amici che hanno lasciato il proprio lavoro come consulenti. Marco è un ingegnere informatico, Maurizio è laureato in economia, per realizzare un'impresa innovativa. L'app che hanno creato i due sfrutta le potenzialità della geolocalizzazione e dà vantaggio ai negozianti pubblicizzando i loro prodotti. L'idea è nata proprio dentro i negozi. Sentiamo come. Ce lo racconta Marco Moschini. L'idea è nata verso la fine del 2012, quando io e Maurizio, l'altro cofondatore di questa startup, ci trovavamo con le nostre ragazze a fare shopping un sabato pomeriggio a Milano, in un centro commerciale, e abbiamo notato come le nostre ragazze facevano fotografie ai prodotti e poi le inviavano utilizzando SMS o anche email alle sorelle, alle amiche. E quindi ci siamo chiesti se non c'era un modo più intelligente per far interagire le ragazze e i ragazzi che vanno a fare shopping e che hanno bisogno di un consiglio su, per esempio, capi d'abbigliamento o comunque su qualsiasi cosa che una persona può acquistare in negozio, avere appunto uno strumento facile, innovativo da utilizzare per avere un consiglio immediato. E quello è stato l'attimo in cui abbiamo realizzato che forse si poteva fare un'applicazione per smartphone che risolvesse questo problema. Mi permetto qui di fare una breve parentesi dicendo che abbiamo studiato tanto, per esempio, il mercato ed è emerso che addirittura circa il 60% delle persone che fanno shopping dichiarano di essere influenzate pesantemente dalle opinioni degli amici e dei familiari. E quindi ecco perché si spiega anche il nostro target di richiedere appunto un sondaggio proprio da amici o parenti. Ecco, trovato il mercato, fatto il prodotto, chi vi ha aiutato per realizzarlo? Cioè, nel senso, quelli che vi hanno dato proprio una mano per fare la vostra svolta? Dopo che noi abbiamo messo sull'App Store, quindi fatto uscire l'applicazione sul mercato, è arrivato il PoliHub, noi ci siamo autocandidati, siamo stati accettati, siamo stati incubati a partire dal 2014 e loro chiaramente sono fondamentali per tutto l'aiuto che può essere legato al perfezionamento del business model, a capire quindi eventualmente anche come fare il pricing ideale per questo prodotto, e quindi sicuramente sono una risorsa fondamentale per tutte le startup che poi vogliono chiaramente continuare a crescere ed avere un futuro. Certo, per voi sono importanti gli spazi e quindi il co-working, sono importanti altri riferenti e quindi mentor, e sono importanti anche, diciamo, i finanziamenti, ecco, i vostri capitali e il vostro modello di business. Com'è che lo definite? Noi siamo partiti, quello che viene definito in inglese, in fase di bootstrapping, quindi noi abbiamo attinto i nostri risparmi e quindi il classico round friends and family, abbiamo cercato anche con le nostre famiglie di convincerli della potenzialità delle idee e di farci finanziare circa appunto 8 mesi di questa esperienza dalla realizzazione tecnica e anche chiaramente tutte le spese che abbiamo dovuto sostenere, ad esempio le spese di marketing. Ora noi abbiamo un modello di business che prevede di fare revenue sfruttando la nostra applicazione con i negozi fisici, partendo appunto qui da Milano. Stiamo cercando di fare delle partnership con dei negozi che sfruttando la nostra applicazione possano raggiungere quindi nuovi clienti e essere un canale nuovo di comunicazione e di pubblicità per i loro prodotti, quindi una sorta di canone che i negozi pagano per poi utilizzare la piattaforma che noi appunto stiamo ultimando. Di che numeri si parla, insomma, di questi capitali che avete, un range che avete messo, avete speso? Ma abbiamo speso circa 30.000 euro. Abbiamo speso circa 30.000 euro per chiaramente realizzare l'applicazione, portarla quindi sul mercato stabile, tutte le spese di marketing, ovviamente le spese del coworking, perché comunque anche quelle chiaramente vanno conteggiate, quindi gli uffici e soprattutto poi chiaramente anche lì tutte le spese, per esempio pensiamo alle spese di viaggio, quando si deve andare a promuovere anche la propria idea. Quindi insomma noi abbiamo fatto una sorta di business plan completo, dove abbiamo cercato di proiettare da quando siamo partiti a un anno di distanza e abbiamo appunto, con tutte le proiezioni anche economiche, ci siamo dati come budget questo ammontare. Ecco, avete però investito in voi stessi. Sì, sì, assolutamente, secondo me è la cosa più importante in questo periodo proprio di crisi. Se uno chiaramente crede nelle proprie idee, ha voglia di mettersi in gioco e sicuramente anche è capace di convincere gli altri anche della propria potenzialità, si può in qualche modo, comunque con un capitale, sicuramente non stiamo parlando di milioni di euro, di fare un progetto, di portarlo sul mercato e poi chiaramente di sperare di proseguire, di rendere la nostra startup un'impresa solida nel mercato. Altro nome particolare, Thing GK. Ha come idea base utilizzare nuovi sensori per creare oggetti di uso quotidiano con qualcosa in più, una nuova dimensione tecnologica che li rende più utili, più smart, quindi più intelligenti. Il team di Thing GK è composto da due ingegneri elettronici, un ingegnere informatico, un PhD in Information Technology e un designer provenienti dal Politecnico, tutti sopra i 30 anni e con la voglia di usare l'incubatore per sfruttare la rete di contatti e competenze. Sentiamo Stefano Marangoni. La nostra idea è nata circa un anno fa, quando l'Apple continuava a sfornare nuovi prodotti high-tech e basati anche su una forte estetica dal punto di vista del design, e quindi mi è venuto in mente di applicare questa metodologia, questa rivoluzione anche negli oggetti a media tecnologia, quindi curare l'aspetto dell'esperienza utente e del design anche in oggetti più semplici della vita di tutti i giorni, come bilance, calcolatrici, eccetera. Assieme ad un mio collega ingegnere informatico abbiamo cercato di capire chi poteva essere dei nostri, abbiamo coinvolto un designer del Politecnico di Milano e ci siamo ritrovati per la prima volta al quartiere Isola, in un pub del quartiere Isola di Milano, davanti ad una birra, e da lì è nata un po' tutta la nostra avventura. Ecco, il quartiere Isola a Milano, per chi non lo conosce, è diciamo un quartiere che ha attraversato diverse fasi e adesso è pullula di nuove idee. Ecco, voi avete messo lì anche la vostra, l'inizio della vostra. Ma chi è che vi ha dato una mano poi a portarla avanti? Dal pub, diciamo, dal momento in cui è nata, e ovviamente voi da che competenze siete partiti? Noi siamo un team con diverse competenze, siamo tre ingegneri elettronici, un ingegnere informatico e un designer, quindi copriamo un po' diverse competenze e quindi la nostra idea si è potuta sviluppare abbastanza bene fin da subito grazie a questo mix di competenze. Ovviamente avevamo bisogno però anche di un supporto dal punto di vista dello sviluppo del business model, un supporto di tipo più gestionale, di capacità di questo tipo, e l'abbiamo trovato in PoliHub, che è una creatura, diciamo così, della Fondazione Politecnica di Milano. Abbiamo partecipato allo Switch to Product dell'anno scorso e siamo stati tra i vincitori, e da lì, grazie al loro supporto, tutto si è accelerato, tutto è diventato più vicino alla realtà. Ecco, voi già venivate dall'esperienza del Politecnico, eravate già tutti sopra i 30 anni e comunque avete voluto usare questo incubatore per sfruttare la rete di contatti e competenze, e che altro? Questa è la cosa principale, la rete di competenze che consente di avere una realtà come PoliHub è un patrimonio veramente grande per qualunque startup, soprattutto per una startup hardware come la nostra, che ha bisogno di prototipazione, che ha bisogno di schede elettroniche, che ha bisogno di tante competenze e tanti aspetti diversi, e in PoliHub abbiamo trovato una struttura molto capace e accogliente da questo punto di vista. Ecco, questa è non solo l'accoglienza, ma anche in pratica la svolta proprio per realizzare l'idea, che è diventata una cosa concreta, quindi un parallelepipedo completamente in legno, poi un monolite in legno, e poi ci sono diversi oggetti con display e LED, e anche il nome da spiegare. Che nome avete dato a questa idea e soprattutto Che cosa sono questi oggetti? Il nome della nostra startup è SingyK, che è l'unione di due parole inglesi, sing e think, quindi cose che pensano, perché la nostra idea è quella di creare oggetti che sembrano inanimati, con un richiamo all'animismo, diciamo, quindi oggetti che sembrano inanimati, dei semplici pezzi di legno con figure geometriche molto essenziali, dicevamo prima dei parallelepipedi oppure dei cilindri, forme essenziali, minimali e naturali, percepite come naturali, che quando vengono avvicinate da un utente e l'utente prova ad interagire con queste forme, creano e mostrano la loro intelligenza, la loro funzionalità vera. Cioè il primo diventa una bilancia da cucina, il secondo diventa un orologio, esatto, o un timer. Esatto. Comunque ci sono materiali naturali e c'è anche un designer, come ovviamente avete all'interno della vostra startup, che dà anche una bellezza, un'estetica. Ma i numeri a cui pensate, cioè il modello di business che volete realizzare, qual è? Da che cosa guadagnate? Essendo una startup hardware, il modello di business è abbastanza semplice, i ricavi derivano dalla vendita degli oggetti. Pensiamo di collocarci all'inizio, essendo prodotti di design, in una nicchia abbastanza piccola del mercato, perché pensiamo ad una produzione iniziale di circa 1000 pezzi all'anno per ognuno dei prodotti che mettiamo in commercio, e pensiamo di mettere in commercio una serie di prodotti all'anno, quindi circa 3 prodotti ogni anno. E con questi numeri si possono ottenere fatturati di qualche milione di euro in 3 anni. E i soldi da dove li vorreste prendere? Crowdfunding, no? Sì, perché pensiamo che la nostra idea sia molto adatta a piattaforme di crowdfunding. A fine mese faremo partire una campagna su Indiegogo, che è una delle due piattaforme più famose a livello mondiale, e anche qui, forti dell'esperienza di altre startup di PolyHub come Faptotum, che ha ottenuto il record europeo di finanziamento pochi mesi fa su questa piattaforma, speriamo di avere un successo analogo e quindi portare alla realtà la nostra idea. E allora partecipate, ovunque talenti cercasi. Se volete ascoltare le precedenti storie, o anche queste, o scriverci le vostre, Voci di Piccola Impresa è su Twitter con account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog è su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza. Un saluto da Anna Marino.